da da da martedì ta-na-na, tu devi fare ta-na-na-na-na. Martedì martedì martedì. Cioè, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, du liebst ich nicht. Voglio vedere. Cioè, io ti amo, tu non mi ami. Io non ti amo. Da da da. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. E come sempre accade il martedì. Echeggia per l'universo l'ululato del lupo del martedì. Il lupo del martedì. Cosa? Spaventi i bambini. Vabbè. Guarda che il lupo fa paura. Guarda che è giusto che i bambini sappiano. Sappiano cosa? Sappiano che nella vita esistono momenti up e momenti down. Sì, vabbè, momenti floppa floppa e momenti geure geure. Certo, lo sappiamo. Esiste il venerdì, che è carico di speranze, portatore di una luce primigenia che guida l'ignaro profano verso le vette della verità. E questo è venerdì. Poi... Ed esiste anche il cupo e buio martedì, il punto più lontano dalla luce della verità, il girone desolato dell'entropia costante. Hai sentito? Ma smettila con questa menata del martedì, vabbè, il lupo e tutto quanto. Tra l'altro ci fanno giustamente notare su Facebook che in un anno ci sono 52 settimane, quindi né 48 né 60. E quindi ci sono 52 venerdì e non 48-60 come dicevi. Vabbè, tu. Cosa vuol dire? Io aggiungevo dei venerdì. Ah, per non farti dire che ti manca qualche venerdì? Questo è molto divertente. Questa qui la capiva mia nonna... Perché mia nonna è degli anni, negli anni 30, sì, 20. Lei era dell'Ottocento, no, no, era all'inizio del secolo, però negli anni 20-30 leggeva le riviste ragazza, umoristiche, diciamo, no? Tipo quindi, Achille Campanile. Sì, sì, il Candido, non so come si chiamavano. Sì, però anche se dicevo più le cose, dove vai? All'arcivesco vado, io dall'arcivesco vengo, quel genere di... Sono più di 4 mesi che Super Mario è in cattedra, ma la classe Italia continua ad avere seri problemi disciplinari, molto sani. Guarda che io te l'ho sempre detto, non basta essere autoritari, bisogna anche incarnare dei buoni esempi. Beh, ma scusa, Super Mario incarna di sicuro un bel esempio, un buon esempio. Ha studiato alla Bocconi, ha insegnato alla Bocconi. Ha litigato con Bocchino. Ma quando mai? Facevo per dire. Ma non faceva ridere. Ma l'hai suggerita tu, l'hai scritta qua, Bocchino, Bocconi. Ma se non ti piace puoi sempre cambiarla. No? Comunque l'esempio di Monti non basta, ci vogliono esempi più vicini alla gente. Perché Monti appartiene patatine. Io di patate ne ho viste tante. Perché Monti appartiene a un'elite. L'elite dei bocconiani. Vabbè, ma prima c'era Silvio, scusa, che apparteneva a un'elite, invece non dei bocconiani, però insomma un'elite economica. Vabbè, quindi... ma lui era più popolare, no? Più popolare, dai. Eh sì, perché la gente si riconosceva in lui. E io sono stremato, capito? Capito? Siamo tutti stremati dalla crisi. Anche lui, lui lo diceva, la gente si riconosceva. Ma sì, però lui non era stremato dalla crisi, cioè, e nemmeno dal troppo lavoro, a quanto si è capito. Era stremato dal burlesque. Certo, le eliminatorie di quella famosa gara di burlesque, sai, sono una mazzata da seguire. Sai che impegno ci vuole? Devi tenere i conti di tutte le votazioni. Certo. Quella lì l'altra volta gli ho dato 9. Poi bisogna ricordarsi i nomi, le facce. Le facce, insomma. No, anche qualcos'altro, cioè, le facce. Però le facce sono più facili da distinguere, se devi riconoscere una persona. Beh, insomma, sì, ma c'è anche l'olfatto che aiuta. Quindi secondo te questo premier stremato rappresenta un esempio migliore del premier preparato come Monti? Sì, no? Perché preparato e distaccato non va bene. Devi essere sì preparato, cioè sempre pronto, ma emotivamente devi essere vicino alla gente. E quindi stremato. E io sono stremato, capito? Intanto la Lega ha assunto uno sciamano a tempo pieno e indeterminato. Come uno sciamano? Un druido, semmai. Ah beh, sì, forse sì, un druido sciamano. Per fare cosa? Per interpretare le parole di Bossi. Cioè, si è reso necessario lo sciamano druido o druido sciamano perché negli ultimi tempi le esternazioni del vecchio capo leghista sono sembrate un po' fuori luogo. Ah, solo negli ultimi tempi. Ma no, in effetti, già quando era ministro non era chiaro come potesse essere un ministro e dire certe cose. Vabbè, però questo forse non è un problema che ti riguarda, Drago. No, il problema è farsi... Il problema infatti forse non era il suo, ma era il nostro che non capivamo. Adesso c'è lo stregone che fa un po' da interprete, da tramite, quindi tutto sarà più chiaro, no? Beh, comunque una delle ultime cose che ha detto è che si ricandida alla segreteria. Ecco, infatti, bravo, è stata... Non è che c'è da interpretare. Proprio, no, è questa esternazione in particolare che ha fatto scattare l'allarme in casa Lega. E quindi dopo un'analisi attenta da parte dello sciamano druido si è capito che Bossi non aveva detto mi ricandido alla segreteria, ma alla candida, alla zia Pia. Si lamenta l'impresario che teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia gira un buon attore e vedrà che la crisi passerà. Ma non ho capito una cosa, ma quando paghi, no? Poi ti torna indietro che hai pagato lo scontrino della ricevuta... Ma quando paghi cosa? Ma non lo so, boh, proviamo a chiamare il call center, io queste cose proprio non le capisco. Si prega di attendere, tutti gli operatori sono momentaneamente disoccupati. Chissà se la campagna dei fax in sostegno del presidente Formigoni sta dando risultati, perché non si è saputo più niente. Dopo che lui per forza, è che lui voleva comunicare, di mandargli dei messaggi di solidarietà via mail, però gli è scappato fax, no? E come l'aveva detto. Fax, e quindi il fatto che ormai Formigoni il fax non ce l'ha più nessuno. Infatti, io ho saputo addirittura di gente che è dovuto andare a comprare la macchina del fax di nuovo, problema, su eBay, eccetera. Altri saranno andati da amici e conoscenti che hanno ancora la macchina del fax. Fatto sta che io spero che qualche fax sia arrivato. Un fax con su scritto Formigoni non si tocca in regione, anche se però, sembra scusami, che non è arrivato, perché mi sa che lui il numero a cui mandare i fax non l'ha mica dato. No, ha detto mandatemi un fax e basta, se non si ricorda bisogna mettere anche il numero. Vabbè, comunque Formigoni non si tocca. Il voto di castità vale anche per il fai da te. Allora, Cappa, la canzone di Celentano ha avuto un successone. Tutti la vogliono imparare, tutti la vogliono riascoltare. Non so, possiamo concedere un bis oppure... Ma non so, dai, non fare è una il cosa timido, un po' personale, voglio dire. È tratta del mio rapporto personale con Tito. Ah, quindi non vuoi fare come si usa oggi, mettere in piazza le emozioni. No, ho paura che di... alla gente piaccia solo perché fa un po' ridere, capito? Ma non capiscono il dramma che c'è alla base. Per il dramma quello. Di non essere più amato incondizionatamente dal proprio cane. Ho capito. Insomma, non è mica... Tito... Fammi un flop a flop, dai. No, geure geure. Lo so che nel tuo geure geure c'è un flop a flop, ma... Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre... This is the dog singing. Stai già pensando a un altro cane. Mi sento già sperduto e la mia zampa dove tu prima brillavi è diventata un geure geure, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno. E dal geure geure un flop a flop. Lascerà a domani. Domani cosa? Floppa floppa? Tu facevi Geura, Geura, lui faceva floppa floppa.